Povera terra mia, presa a morsi, umiliata da mani invisibili, eppur tangibili, artigli spietati che squarciano la terra e i corpi di questa Calabria disastrata, svenduta agli interessi rapaci di chi lucra sulle emergenze. Piove, piove da miliardi di anni su questo pianeta e non può essere un dramma. Diventa un dramma se è la stupidità la regola di gestione territoriale, se è il saccheggio la sua forma, se è il profitto da cemento e da devastazione ambientale il suo core business. Tragedie su tragedie su tragedie. Terra svenduta per un pugno di soldi, con la pistola alla tempia. Siamo di fronte alla consumazione di delitti impuniti, i cui mandanti ingrassano in doppio petto nei dipartimenti regionali, intorno ai tavoli politici, a braccetto con imprenditori sciacalli che banchettano sui morti. Il business delle emergenze non è un'invenzione dei giornali o una storia da bar, ma è la condanna a morte per i territori, per la sicurezza delle case, della vita di un popolo, che è solo pedina sacrificabile, questa dama macabra inaccettabile, che distrugge il futuro e rende impossibile il presente. Non c'è più decenza, ma solo criminalità, collusione e complicità. Benvenuti dalle frequenze di Radio C Roma 105.7. Noi siamo gli Scarafaggi, come sempre sorridenti oggi, anche se, come abbiamo potuto ascoltare dal monologo iniziale, l'ennesima tragedia per la nostra povera Calabria, con la distruzione sullo Ionio, il solito problema che si ripresenta ogni volta che piove un pochino più del normale. Insomma, un territorio devastato, il dissesto idrogeologico non è qualcosa con cui scherzare. Infatti continuiamo a contare i morti, continuiamo a contare i danni, ecco, esatto. Quindi una politica che ha permesso tutto questo, che da decenni stupra un territorio intero, e questi sono i risultati. I risultati che comunque il 98% del territorio calabrese è a rischio idrogeologico, lo sanno anche i muri. Lo sanno anche. Quelli, anche i muri che crollano. Lo anche sanno. I muri che crollano. Quindi sanno. Magari anziché parlare di TAV, di ponti sullo stretto, di canali che tagliano in due la Calabria e di opere faraoniche del genere, di gestire il pubblico con il privato, le risorse comuni, i beni comuni con i privati, bisognerebbe affrontare una politica dedita alla riduzione, quantomeno alla mitigazione del rischio idrogeologico, anche perché sarebbero tanti posti di lavoro, la prevenzione in primis, tanti posti di lavoro, anziché il business poi dell'emergenza. Si tratterebbe di investimenti più che di spese. Ora sembra che comunque uno spiraglio con l'incarico dato a Carlo Tanzi, a capo della Protezione Civile, sembra. Sì, sicuramente c'è uno spiraglio di speranza, perché Carlo Tanzi, lo sappiamo tutti bene che tipo di persona è, di professionista sia, quindi auguriamo buon lavoro, anche se sei esordito male, perché non ho sentito. Hai esordito male, diciamo così, in questo senso, cioè, è stato sfortunato, ha cominciato male, subito nominato e prima tragedia. Doveva ricevere l'incarico d'estate, così, perché a casa piove, c'è una catastrofe. Purtroppo sì. La cosa che dispiace è che magari se fanno i summit sempre le stesse persone che sono 40 anni che lucrano su questo territorio, non vedo come se ne possa uscire, come possono trovare soluzioni loro che sono la causa forse di quello che succede. Esatto, infatti curare il male con le cause del male stesso, insomma, non è molto intelligente. Quindi cominciamo questa puntata di oggi, la settima puntata mi sembra di questa nuova stagione, la sesta, ci dice Andrea, che sempre tiene il conteggio preciso. Andrea, per preciso, salutiamo anche Valentina che è con noi oggi finalmente dopo tanto tempo, con il cappellino dietro il vetro. Che si è salvata dal costone di Zumbano. Proprio per il rotto della cuffia, diciamo così. Quindi puntata oggi parleremo di queste delle novità, insomma, che sono emerse in regione con questa presentazione, no? A cui abbiamo anche partecipato ufficialmente. Delle linee guida, siamo andati anche se non eravamo invitati, ovviamente, come sempre. Quindi queste nuove linee guida del nuovo piano regionale dei rifiuti, e parleremo insomma delle contraddizioni evidenti che ci sono, di tutte le criticità e il resto. Avremo un contributo in diretta, poi dopo vedremo chi ci sarà al telefono. Abbiamo scritto una lettera aperta al governatore Mario Oliverio, ne parleremo poi nel corso della trasmissione, una lettera in cui, come dicevamo nella precedente puntata, chiediamo delle cose precise ad Oliverio, anche perché, visto quello che è uscito fuori dalle linee guida del nuovo piano rifiuti, tutto è tranne delle promesse che sono state fatte in regione quando abbiamo portato le 8500 firme dei cittadini, nonostante le interviste che vanno fatte, nonostante le... sì vabbè, veramente pietoso, stendiamo un velo perché è veramente pietoso. Tu forse ci riesco a farla sentire in diretta, tanto è una cosa di 20 secondi in cui c'è da ridere. Sì, trovala, che manderemo anche questo contributo. Per il resto, questa è la puntata di oggi. Andiamo con la rubrica velocemente. Oggi è il 2 novembre, il giorno dei morti, quindi momento di riflessione, insomma, di ricordo per tutti i cari defunti. Quindi 2 novembre, vediamo nella storia che cosa è successo questo 2 novembre. Vediamo un po'. 1917, sionismo, la dichiarazione Balfour proclama il supporto britannico all'insediamento ebraico in Palestina, quindi il 17 comincia la nascita dello Stato israeliano, cominciano i problemi. Nel 1936 viene fondata la Canadian Broadcasting Corporation, la CBC. Nel 1936 la BBC comincia le regolari trasmissioni televisive con un segnale da almeno 200 linee, poi convertito a 4,75. Vabbè, dettagli tecnici. Vediamo un po'. Dal 1967, guerra del Vietnam, il presidente statunitense Lyndon Johnson tiene una riunione segreta con un gruppo dei più prestigiosi leader nazionali, i cosiddetti uomini saggi, e chiede loro di suggerire i modi per unire il popolo americano in appoggio allo sforzo bellico, insomma una cosa che quando l'America entra in guerra si ripropone sistematicamente. Questi saggi concludono che l'opinione pubblica necessita di ricevere rapporti più ottimistici sui progressi della guerra, quindi mentiamo su come va la guerra in Vietnam, ma così la gente ci viene dietro. Solita tecnica manipolatoria. Poi andiamo avanti, vediamo un po'. Pena capitale, 1984, Velma Barfield diventa la prima donna giustiziata negli Stati Uniti dal 1962, vabbè, giusto per ricordare che in America ancora vige la pena di morte. Poi c'è, oggi è la... del 75, una ricorrenza molto triste, viene uccisa all'idroscalo di Ostia Pierpaolo Pasolini, quindi ricordiamo forse l'ultimo intellettuale italiano, qualcuno che ha visto molto prima che si verificassero realmente, no, gli sviluppi del moderno consumismo, del moderno sistema consumistico capitalista, un intellettuale che ha segnato un'epoca, che ha dato voce a fasce di popolazione che altrimenti sarebbero rimaste senza voce. Diciamo che era uno avanti anche per il 2015. Sì, è uno avanti anche per i nostri tempi, è vero. Quindi ricordiamo Pierpaolo Pasolino, un grande davvero. La rubrica è andata, passiamo con il primo pezzo musicale della giornata, ci sentiamo tra poco. Takes a part of me, something lost and never seen. Every time I start to believe, something's raped and taken from me, from me. Life's gotta always be messing with me. Can't it chill and let me be free? Can't I take away pain? I try to every night, all in vain, in vain. Sometimes I cannot take this place. Sometimes it's my life I can't taste. Sometimes I cannot feel my face. You'll never see me fall from grace. Bentornati in studio, bentornati in studio 105.7, siamo gli Scarafaggi. Italo, sei pronto con il contributo audio? Sì, un attimo. Dovrei... Andiamo a farci della discarica di Celico nel Cosentino dopo l'annuncio del governatore Oliverio a margine della conferenza stampa sui rifiuti che si è svolta ieri mattina nella cittadella regionale. Ha detto a Celico niente indifferenziata, i sindaci della Presila si dicono soddisfatti per il risultato raggiunto dopo le proteste attuate in questi mesi. Anna Franchino. La mobilitazione della Presila ottiene il risultato sperato. Nella discarica di Celico non andranno più rifiuti indifferenziati. L'annuncio del governatore Oliverio, che ha fatto suo l'urlo dei cittadini costretti più volte a scendere in piazza e manifestare. Già nella proroga che noi abbiamo approvato abbiamo escluso la discarica di Celico come discarica appunto destinataria di indifferenziata. Noi abbiamo ricondotto appunto nella discarica di nella ordinanza la discarica di Celico ai suoi scopi originari, quindi solo un impiantino di essiccazione. Alla discarica di Celico non andranno più tal quale, non andranno più rifiuti indifferenziati, voglio essere chiaro. Poi naturalmente in prospettiva noi puntiamo a discariche zero. Questo è il nostro obiettivo. La soddisfazione è piena, i sindaci interessati sperano. Insomma, voglio essere chiaro, ma di chiaro è stato veramente, veramente poco, perché ha una confusione in testa che fa veramente paura. Ma ne parlavano prima, dici che è una confusione voluta, è una confusione vera e propria. Secondo me è una confusione voluta, questi sono dei professionisti. Come cazzo si fa a chiamare una discarica di 300.000 metri cubi impiantino di essiccamento? Un impiantino di essiccamento è veramente scandaloso. Ma poi, insomma, voglio dire, è anche il taglio dello stesso taglio del servizio, no? La protesta dei cittadini ottiene il risultato sperato. Che cosa sperato? Noi stiamo chiedendo da mesi, da anni, la chiusura della discarica, perché si tratta di un impianto illegale che non rispetta i termini di legge, e qui parliamo di quale risultato. Poi la solita manipolazione politica, sì, a margine di una competenza tecnica veramente scarsa, nel senso che le 8.000 passafilme che abbiamo raccolto noi, perché ha raccolto il Comedy insieme alla popolazione, senza l'aiuto di nessuna istituzione, perché bisogna essere chiari, chiedevano e chiedono il ritiro dell'AIA, perché l'impianto di Celico è un impianto illegale, ci sono dei faldoni fatti dal nostro avvocato che cercheremo di portare in tutte le sedi della giustizia preposte alla decisione dell'eventuale chiusura. E il giorno in cui noi abbiamo portato l'istanza di un intero territorio, il presidente Pelle non si è fatto trovare, ancora una volta, perché è la terza volta che bidona un incontro con i rappresentanti sia istituzionali che del comitato in merito alla discarica di Celico. Due volte ha bidonato noi quando era presidente della provincia, circa un anno e mezzo fa, per ben due volte. La terza volta è stata questa volta in regione. Anche all'epoca, per quanto riguarda gli incontri in provincia, si parlava di uno degli innumerevoli illeciti di questa discarica. Si parlava dell'ingresso abusivo che è di competenza provinciale e su cui la provincia non ha mai risposto. Assolutamente. Quindi, ancora tutto. Ripetiamo sempre le stesse cose, però purtroppo questa è. Poi vediamo, sentiamo queste dichiarazioni che fanno veramente rabbrividire, anzi, per non dire fanno incazzare seriamente, perché voglio dire, la confusione tecnica sui termini proprio della questione è palese ed è incredibile. Però è ovvio che si tratta di una strategia per rabbonire, no? Le persone che comunque hanno raccolto le firme, che sono state in piazza il 24 settembre con la fiaccolata, il 24 ottobre con la manifestazione a Celico, che stanno comunque facendo pressione, che hanno fatto i blocchi della discarica nel 2014, quindi quando c'era Scopellite, e quindi la discarica non andava bene. Oggi c'è Oliverio e la discarica va bene. L'impiantino di essiccamento adesso non è più neanche un impianto di compostaggio, è un impiantino di essiccamento. Cioè, qua dicono che non buttano l'indifferenziato. Le discariche nascono e vengono progettate per il deposito dell'indifferenziato, del residuo secco, quello che a Cosenza si butta lunedì, nei nostri paesi quando si butta l'indifferenziato giovedì, mi sembra giovedì. Il mastello nero, quello del residuo secco, degli scarti di lavorazione, se non ci va questo, che ci mettiamo in discarica? Il vetro, la plastica, l'organico, cosa ci vogliamo mettere? Io qualcosa, un'idea ce l'avrei. Perché sono confusi tra tal quale e indifferenziato. Il tal quale non viene buttato nella discarica di Celico ufficialmente da circa un anno, ufficialmente, perché ufficiosamente invece sì, perché viene trattato parzialmente, quindi rimane, non è tal quale per legge ma per è legge emergenziale, per ordinanze contingibili e urgenti, ma comunque rimane tal quale. Quindi bisogna fare pace con il cervello e bisogna dire la verità, non bisogna cavalcare ancora una volta, perché quello che stanno facendo è provare a cavalcare ancora una volta una protesta popolare. Ancora una volta l'hanno fatto 2 anni fa, ci hanno vinto le elezioni nei comuni, ci hanno vinto, ci hanno fatto le campagne elettorali con la chiusura della discarica di Gerico, quello come si chiama? Il consigliere. Sì, non lo dico il nome perché sennò dici Catigno qui. Che, no, perché no, su, no, perché quell'altro spilungone firma il documento per il ritiro dell'AIA e poi dice che possiamo utilizzare l'impianto come per il trattamento dell'organico. Ma fate pace con il cervello, ma cosa volete? Cioè non potete portare avanti le istanze di un popolo e poi modificarle a proprio uso e consumo a seconda della stampa che vi intervista. È paradossale, è assurdo che si fermano delle cose e se ne dicono altre. Purtroppo questa è Italo, caro Italo e cari ascoltatori, perché insomma diciamo che la pratica costante, no, negli anni è stata sempre questa, quella di è un po' il cerchio bottismo della politica regionale calabrese, no, una botta al cerchio e un'altra al timpano o a rutin bagno, come si dice in dialetto, no, perché si fa così per tenere buona una parte della popolazione che non ne può più di alcune situazioni, nello stesso tempo si rabboniscono chi ha interesse a lucrare su queste cose, perché gli imprenditori che fanno business sui rifiuti naturalmente vanno comunque, no, rassicurati da un certo punto di vista. Ricordavamo insomma l'incontro di Oliverio, no, con i signori della Munnizia a Calabria Mageri, dove gli prometteva dei soldi. Adesso ne parliamo, i soldi sono arrivati e sono arrivati pure bei soldini per questi signori, quindi poi nella sostanza la politica non cambia solo nelle parole, no? L'indifferenziato non va più in discarica, fanno confusione, giocano alla confusione, perché comunque quando si parla di in termini tecnici la popolazione è molto più facilmente raggirabile, perché Vabbè, con questo livello di informazione sì, perché altrimenti la materia non è che questo grande tecnico. Assolutamente, ci vogliono le lauree per capire queste cose. Cioè, è volutamente messa nel calderone del caos, con l'aiuto dei giornaletti, perché i giornaletti si trattano di giornaletti di querelati, non mi significa niente, il Garantista, la Provincia, il Quotidiano della Calabria, il giornaletto dove scrive gente pagata da questi signori da anni, che vivono sovvenzionati da questi signori che governano la Calabria da sempre, perché questi signori sono lì da sempre. Oliverio non è il nuovo che avanza, Oliverio è quello che avanza di quello che è stato. Cioè, nel senso, non c'era qua, c'era 30 anni fa in consiglio regionale, ce lo ritroviamo oggi presidente, sto presidente della provincia. Cioè, è un uomo che ha fallito in tutto e per tutto. Perché ancora noi siamo in mano a questa gente? Per quale motivo? Non si sa. Io non me ne capacito, certe volte. Vabbè, diciamo che insomma le cause per cui ci ritroviamo questa gente sono tante, molteplici e varie. Bisognerebbe fare una trasmissione a parte per affrontare, non nel dettaglio e in profondità, il perché ci troviamo questa classe dirigente. Quindi è una cosa che riguarda tutto il paese, non solo la Calabria. Vabbè, andiamo avanti insomma nella discussione. Vabbè, che cosa è successo in questa settimana? In questa settimana è successo che hanno presentato queste linee guida, no, del nuovo piano dei rifiuti, in questa conferenza stampa in pompa magna, convocata tra l'altro all'ultimo minuto, giorno prima. I sindaci l'hanno saputo tramite PEC la sera stessa, quindi molti non sono andati, perché dici, ma come facciamo ad andare, insomma in 4-4-8 è impossibile andare. Quindi hanno presentato queste linee guida. Tu che ci sei stato e hai assistito, insomma. No, non sono stato io, ci sono stati altri ragazzi. Comunque sai, dopo sentiremo, sai benissimo, dopo sentiremo da chi c'è stato realmente quello che è successo. Quello che posso dire è che hanno invitato, almeno così hanno scritto, tutte le associazioni ambientaliste. Non è vero, perché hanno invitato solo Lega Ambiente. Ancora c'è un po' di confusione sulla quarta commissione ambiente. Non si capisce bene se è stato eletto il presidente, ma dopo Ciccio ce lo può dire bene al telefono, se è stato eletto il presidente, se non è stato eletto, se gli iteri sono portati avanti. Ma dalle carte che abbiamo letto e da quello che è uscito fuori da quella conferenza stampa, brividi, nel senso che non è cambiato nulla, ci ritroviamo punti a capo con una situazione di emergenza prolungata fino al 2017, ma solo perché non erano i soldi da mettere in previsione per il 2018, sì. Perché se no è fino al 2018 la, la, la, l'emergenza. Quindi in questo lasso di tempo loro si appoggeranno ai privati nuovamente, mentre in questi 3 anni dovrebbero fare gli impianti, che poi non si capisce bene che li diranno addirittura ai privati. Non si capisce bene, perché comunque io personalmente ho dato una lettura molto veloce, per questo magari dopo sentiamo, sì, dopo sentiamo Ciccio, ci parlerà. Ci dice, però da quello che si evince è chiaro che zero discariche, che abbiamo sentito prima ancora una volta uscire dalla bocca di Oliverio, è solo uno slogan politico, perché non hanno assolutamente contezza di quello che vogliono fare. Ci sono questi impianti, non si capisce che impianti sono, si è riparlato addirittura di costruire l'impianto di Bisignano, si è riparlato di altre zone che erano state per il momento escluse, è sempre Cerico al centro dell'attenzione, Scalacieli, Rossano, sempre le stesse discariche, sempre gli stessi privati e gli stessi interessi. Si è parlato di raccolta differenziata, ma semplicemente a margine. Com'è possibile che l'obiettivo massimo di questo piano sia arrivare nel 2020 al 65%, quando era l'obiettivo del 2012? Cioè, è inverosimile. Noi abbiamo dimostrato numeri alla mano, soprattutto in quell'incontro che siamo andati a fare in regione all'ingegnere Pallaria, come alzando l'asticella della differenziata di pochi punti percentuali si possa abbattere in modo esponenziale il conferimento in discarica dei rifiuti indifferenziati tal quale. E non si capisce perché questi signori devono continuare su questa strada dei mega impianti, della non trasparenza, del non dialogo. Non c'è un vero senso, se non quello politico, di strategia politica e di strategia di appoggio a determinate famiglie e determinati interessi privati che vanno a gestire non solo il ciclo dei rifiuti, ma anche a questo punto bacini elettorali abbastanza significativi che permettono a queste persone di rimanere imperterriti in quei posti di potere. Ecco qua, infatti hai usato proprio il termine. Poi mi querelano, sì. No, vabbè. Insomma, non è questo quello che ci spaventa. Voglio dire, hai centrato secondo me proprio il cuore del problema, no? Hai parlato di bacini elettorali, quindi più che altro, insomma, questi contentini, questi soldi, queste politiche, insomma, che si applicano in maniera indiscriminata, poi in realtà sembrano proprio quello che hai detto tu, sembrano degli scambi elettorali, no? Delle fatture che quasi vengono pagate, insomma, a questi signori, perché altrimenti non si capisce come una regione come la Calabria nel 2020 deve porsi un obiettivo che è stato il minimo sindacale negli anni 70 in America, il 65% di differenziato. Quindi stiamo parlando di 40 anni fa, no? Quindi di che cosa stiamo parlando? Il problema dei rifiuti non lo si vuole risolvere, è chiaro. Non è nemmeno una questione di capacità o di impossibilità di investimenti, perché i soldi abbiamo visto che ci sono. Arriva, dopo, i soldi arrivano. Dopo ne parliamo e scendiamo più nel dettaglio delle cifre con Francesco, che è più informato di noi, ma il problema appunto non sono i soldi, non mancano i soldi, non mancano le idee, non mancano i progetti, non mancano gli esempi, manca appunto la volontà politica di fare un discorso diverso sulla gestione dei rifiuti come su altre cose in questa regione. Quindi si tratta evidentemente di questioni elettorali, di questioni di spostamento di voti, no? Hai centrato perfettamente il problema. Discorso che rimane tutto immutato e non va assolutamente bene, perché basterebbe davvero poco, nel senso che ci ripetiamo sempre le stesse cose, mi annoio solo, cioè mi sicco proprio, cioè, tipo il residuo secco che va in discarica dall'impiantino, cioè, ci sono la maggior parte, il 99,9% che è una percentuale che piace molto al nostro sindaco, dei comuni calabresi è un comune sotto i 3.000 abitanti fondamentalmente, quindi dove la raccolta differenziata potrebbe essere implementata in giro di pochissimi mesi. Io azzardo 6 mesi tra bando, come acquisto dei mastelli e implementazione pratica con corsi, informazione e via dicendo. Sì, sì, nel giro di un anno è a regime pieno. Fatta con i crismi. Sì, ovviamente. Non si capisce per quello, ma c'è. Al netto di questo, la percentuale di differenza di indifferenza si abbasserebbe in modo abominevole. E quindi questi mega impianti che loro hanno previsto non servono proprio, di cui non servono a nulla, se non poi si va a finire come la Campania, che per mantenere questi impianti costruiti durante l'emergenza deve attrarre rifiuti da fuori dalla regione, altrimenti questi impianti sono in deficit sia economico, esatto, ma anche energetico, esatto, e quindi questi impianti, quando sono in deficit energetico, non possono funzionare, e quindi il deficit economico aumenta ancora di più. Un cane che si morde la coda. Capisco che Oliverio non capisce queste cose, perché ovviamente, però parlare, ma non le deve capire Oliverio, cioè Oliverio è, cioè, voglio dire, non è che vogliamo un presidente della regione che sia tecnico dei rifiuti, non dovrebbe, cioè è circondato di tecnici, di fior fiore di tecnici, insomma, voglio dire, se ne potrebbe anche trovare altri, se quelli che c'ha intorno non servono a niente, no? Se fosse questo il problema, non è questo il problema, perché non sia un problema di tecnici. Appunto, Pallaria non mi sembra assolutamente uno stupido e uno sprovveduto, nonostante non sia un esperto di rifiuti. Ma non c'è solo Pallaria, c'è un dipartimento intero. Quindi non penso che siano incompetenti. Quindi, il discorso è che, come abbiamo sempre sottolineato, il problema dei rifiuti ormai non è più un problema tecnico, è un problema politico. È un problema politico, e questo è il punto. Poi un'altra cosa, stavi parlando del piano dei rifiuti, quindi hanno presentato queste linee guida. Quello che ti chiedo, insomma, così ne parliamo con i nostri ascoltatori. Quindi mi stai facendo un'intervista? Sì, ti faccio quasi un'intervista, anche perché, insomma, è chiaro che noi abbiamo chiesto più volte, insomma, in varie occasioni, personalmente, in incontri pubblici, in dibattiti, in conferenze, riunioni ufficiali, di aprire la discussione del piano rifiuti ai territori. Ancora una volta, quindi, ci arrivano con il pacchetto pronto in pompa magna, e delle discussioni dei territori non se ne è sentito parlare proprio. Voglio dire, parlavi di dimensione degli impianti prima, parlavi appunto dell'inefficienza, del fatto che basterebbe poco per far funzionare meglio le cose, che non ci servono i mega impianti, ma essendo i comuni calabresi di piccole dimensioni, basterebbero piccoli impianti specifici per ogni territorio. Quindi, da questo punto di vista, il contributo, no? E le richieste che nascono da un territorio sarebbero fondamentali per rendere un piano dei rifiuti funzionante, no? E invece Oliverio ha annicchiato ancora una volta, comunque la politica ha annicchiato ancora una volta. Come la leggi tu questa cosa, di questa chiusura, apertura a parole, chiusura nei fatti ai territori? Ricalca quello che è la politica nazionale del Partito Democratico, un partito egemone, un partito della nazione, un partito che non ha alcun interesse nell'ascoltare le esigenze dei territori, ma e neanche dei tesserati, perché si tratta anche di questo, perché molti dei tesserati di questo partito non sono più contenti di quanto sta avvenendo in Italia e di quanto sta avvenendo in Calabria. Non si ascoltano quindi neanche chi dovrebbe essere la base di questo partito. Qua si tratta non si tratta più, a sto punto, mi verrebbe a dire, neanche di un partito, si tratta di una lobby di affari, di una piccola multinazionale calabrese che agisce su questo territorio in nome e per conto di persone che non votano direttamente, ma che poi contano alle chiusure delle urne, quando c'è da affidare gli appalti, quando c'è da scrivere sui giornali, quando c'è da diffondere notizie, quando c'è da implementare determinate tipologie di politiche. Perché qua ci troviamo di fronte a chiacchiere, perché si tratta di chiacchiere. Zero discariche è una chiacchiera, no trib è una chiacchiera, perché nei fatti non c'è nulla, non c'è un'ordinanza che vieta lo scarico a cerico dell'indifferenziato, c'è una promessa verbale, non c'è nulla, c'è una politica di chiusura totale verso gli altri. Quando si parla di trasparenza, si parla di trasparenza negli abissi del mare, perché trasparente in quello che fanno non c'è. Cioè, quel nuovo palazzo bruttissimo che hanno fatto lì, che è una cattedrale nel deserto specchiato, cioè, dovrebbe essere fatto saltare in aria subito, immediatamente, tipo per vendetta. Quello là non è trasparente. La congiura delle bombe. La gente che usciva da lì dentro, la stessa gente, mi hanno detto, mentre io ero dentro, perché anche se alcuni mi hanno tagliato la foto, io ero dentro, mi hanno detto, i ragazzi che erano, chi era fuori, mi ha detto che la gente usciva dalla regione incazzata a dire questo palazzo non serve a un cazzo, qua non si conclude nulla, noi lavoriamo qui e non riusciamo a fare nulla. Cioè, tutti quanti uscivano, chi lavorava lì dentro, incazzato, quindi c'è qualcosa che non va. E non è non è Oliverio il problema, è sistemico a questo punto. Quindi la tua domanda è che io rispondo che esiste un non più un partito, ma una lobby di affari che luca su questa terra e sulla nostra salute. I risultati si vedono sia a livello idrogeologico, basta che piove, fa due gocce d'acqua e crolla tutto, sia a livello di numeri per quanto concerne il lavoro, che a che ne dica Renzi. Sono numeri interpretati a modo suo, perché l'Istat parla chiaro che sono diminuite le persone che cercano lavoro, ma non perché l'hanno trovato, perché già la fanno chiuso, perché sono finiti, sì. Non ce la fanno più, quindi non è aumentata l'occupazione, è finita a livello di istruzione, tutto sta diventando in mano ai privati, stiamo diventando un piccolo stato degli Stati Uniti d'America, in cui tra poco anche le cure saranno completamente a pagamento e non tutti potranno permettersi, e si prevede che nei prossimi anni il numero delle neoplasie, delle malattie dovute all'inquinamento dell'aria, del suolo, dei rifiuti, dell'acqua, aumenta esponenzialmente, esatto. Alla faccia di chi non vuole fare il registro tumori, perché tanto li sappiamo tutti quali sono le situazioni dei malati qui in Calabria, ma non solo in Calabria. Quindi qua si tratta, è una guerra civile fondamentalmente tra una piccola minoranza che vuole gestire il territorio e una stragrande maggioranza che il territorio bene o male lo deve vivere per forza, e quindi sta a noi, a loro. Sì, sì, l'alternativa è scappare come i profughi siriani, perché in realtà poi arriveremo insomma a situazioni in cui o staremo qui a morire o ce ne scapperemo via come profughi, quindi diventeremo i popoli migranti di altri paesi, quindi le persone poco volute, quindi questa è la situazione, è vero, è un problema sistemico. C'è Andrea che ci fa segno che dobbiamo andare in pausa musicale. Ritorniamo con la telefonata, così scenderemo più nel dettaglio su questo nuovo piano rifiuti, questo nuovo tra virgolette piano rifiuti, e quindi tra poco andiamo con il pezzo. Run your fingers down. tornati in studio 105.7, noi siamo gli Scarafaggi, abbiamo in linea Francesco, ci sei, ci ascolti? Come no, certo. Carissimo, grazie per essere intervenuto. Allora, andiamo subito al dunque, al cuore della questione, Francesco. Vogliamo parlare di soldi. Abbiamo già accennato qualcosa, insomma, così a grandi linee su questa presentazione che è stata fatta a Catanzaro sul nuovo piano dei rifiuti, e abbiamo parlato, insomma, del ruolo che avranno nuovamente i privati nel ciclo dei rifiuti calabresi. Tu parlaci delle cifre precise e dei soldi che verranno stanziati. Sì. Allora, allora, io faccio una piccola premessa. Queste cifre precise non sono uscite in questa presentazione che è stata fatta a Catanzaro. Si è rimasti molto sul generico, si è rimasti sul faremo diremo. Ovviamente in sala erano presenti, forse credo tranne Raffaele Vrenna, erano presenti tutti gli imprenditori che comunque no, si strofinavano le mani metaforicamente, perché alla fine mediaticamente loro non dicono cosa vogliono in effetti fare, comunque rimangono molto nel generico, comunicano la raccolta differenziata, faremo questi impianti, però poi chi ha un minimo di conoscenza e di esperienza comprende che questa roba che vogliono fare semplicemente serve per perpetuare quello che finora è stato, ovvero questa gestione così semi-emergenziale, quindi estremamente minna pubblica da mungere, perché poi il cerchio si chiude con gli stessi amministratori che ne traggono profitto dal punto di vista del voto, diciamo, e quindi del mantenimento della poltrona piuttosto che dello status quo. Quindi torno un po' a ripetere, quindi in completo stampa ovviamente tutta una serie di cose non escono fuori. Escono fuori quando uno inizia a leggerle. Io mi sono messo a leggere, ho tirato fuori anche altri documenti però che non vengono minimamente né amplificati dagli uffici della Regione Calabria né vengono trattati dai diretti interessati, quindi nel caso da Oliverio. Allora ho tirato fuori una proposta di legge che la Giunta ha fatto, e l'ha fatta praticamente è la 406, ovvero numericamente la precedente alla proposta del piano rifiuti. Quindi 406 è questa che vi sto andando a leggere, la 407 invece è la proposta delle linee guida. Questa 407 contiene una relazione allegata del dirigente del Dipartimento Bilancio in cui tira fuori tutti i numeri, gli fa anche una piccola ramanzina perché avevano fatto degli errori e gli dice, e quindi lì si comprende che anche la discarica di Celico, diciamo, deve andare avanti. E nell'allegato B, appunto, questa relazione allegato B, pagina 4, tirano fuori le cifre per il periodo ottobre-dicembre 2015 1.455.300 euro. Queste sono tutte cifre tra virgolette presunte, no? messe in bilancio, quindi che poi successivamente devono essere impegnate e poi liquidate. Quindi ottobre-dicembre 1.455.300 euro, per il 2016 5.821.200 e la stessa cifra per il 2017. Quindi sfioriamo i 12 milioni. Sì, siamo proprio cercando questo foglio, eccolo qua, l'ho trovato, che avevo sintetizzato, sono in totale di 13.097.700 euro. Facendo dei calcoli con tutte le notizie, diciamo, che loro pongono in tutti questi documenti, stiamo parlando quindi di un diciamo le potenzialità dell'impianto, che sarebbero quello del trattamento dell'organico di 6.000 tonnellate all'anno, e invece il trattamento con successivo sversamento in discarica di 45.000 tonnellate all'anno. Allora, facendo quattro calcoli, abbiamo ho supposto, diciamo, che quindi in discarica ci dovranno andare 90-95.000 tonnellate di rifiuti e trattati circa 11.500. Quindi, ecco, questa volontà da parte del Dipartimento Ambiente e della Giunta regionale, la volontà è questa, insomma. Un dato incontrovertibile. Loro possono dire e fare tutto quello che vogliono, però le carte purtroppo ai loro cantano. Quindi dico, quando Oliverio parla di che Celico ritornerà a essere quello che era all'inizio, cioè un piccolo impianto di essiccamento, cosa vuole dirci? Vabbè, lui io quando sono stato a Catanzaro, lui addirittura davanti a tutte le televisioni, ma domani ce ne sarà, diciamo, un'ulteriore trasmissione anche abbastanza simpatica, un po' a mo' di Iene, con interviste a mo' di Iene, lui ci dice che la discarica di Celico, l'impianto di Celico in generale, sarà un piccolo impiantino di essiccazione. Quando ha detto questa cosa io mi sono messo a ridere, perché mi sono immaginato l'impiantino di essiccazione dei funghi, delle castagne, di tutto ciò che questa nostra terra dovrebbe normalmente fare, e che invece loro assolutamente non vogliono, per tutta una serie di questioni. Io la sintetizzo: adesso lui sta staccando gli assegni, le cambiali, gli assegni per cambiare per pagare le cambiali elettorali. Esatto, il sostegno che ha avuto da parte degli imprenditori. Non ci dimentichiamo che in consiglio, così, senza voler proprio andare a cercare il pelo dell'uovo, ci sono almeno sei consiglieri che hanno le mani in pasta indirettamente o indirettamente nella questione dei rifiuti. Non so, Orlandino Greco, Sculco, Bova, Graziano, se vogliamo anche Giudice Andrea, inteso che lui è diventato consigliere forse grazie a tutto un lavorio che anche lui ha fatto su questa questione della discarica, appropriandosene evidentemente con il senno di poi, no? Sì, perché insomma, diciamo che ci ha giocato la campagna elettorale sulla discarica di Celico. Sì, e adesso però sta facendo non riesco a capire. Io non sono sui social network, però leggo i suoi comunicati stampa e rimango ovviamente, insomma, rimango senza parole, insomma. Una volta dice una cosa, la volta successiva evidentemente viene bacchettato dai piani alti e dice altro, insomma. Io ero all'incontro che è stato fatto alla Regione Calabria, in cui ovviamente non è stata presa formalmente né è stato fatto un comunicato stampa, e voglio dire, la sua posizione era chiara. Poi è simpatico leggere dopo alcuni giorni la modifica di questa sua posizione, insomma, che però, voglio dire, è in linea con il potere, diciamo così. Sì, sì, con la politica, insomma, che si sta portando avanti. Noi parlavamo appunto di politica del cerchio bottismo, no? Perché nelle dichiarazioni pubbliche si dice una cosa, poi sulle carte, come ci hai appena testimoniato, si dice tutto il contrario. Ancora una volta ci troviamo di fronte a una gestione del ciclo dei rifiuti che va a vantaggio di chi fa business sui rifiuti, dei privati. Del resto, come abbiamo ripetuto più volte, Oliverio gli ha promesso dei soldi e adesso glieli sta dando questi soldi. Chiaro, il discorso fila, e noi dovremmo dal basso, con quelle esigue forze che abbiamo, dobbiamo cercare di fondamentalmente informare le persone, istruirle e fargli capire che ci stanno prendendo in giro da un bel po'. Noi lo abbiamo capito, siamo rodati, non certo non capiamo dalle nuvole, però quando si sta in un territorio in cui questo partito, l'attuale partito di maggioranza, ha delegato la delegano tutto, delegano anche, io rimango basito quando si fanno anche i funerali in base alla presenza o meno di alcuni personaggi o meno, cioè la mattina o il pomeriggio, perché cioè io la vita e la morte, non, io rimango basito, quindi questa delega totale è difficile da scalzare. Sì, assolutamente, però dobbiamo assolutamente provarci, perché non so altrimenti ai nostri figli cosa potremmo lasciarci. Sì, perché niente, bisogna andare avanti assolutamente, bisogna fare tutto quello che assolutamente serve per cercare di non farci. È ovvio che di fronte a ciò, Ciccio, penso che sarai perfettamente d'accordo con me, è arrivato il momento, insomma, di attivare la più ampia mobilitazione popolare dal basso, perché altrimenti non ci sono vie di uscita. Arma. No, non, il potere non lascia spazi, non concede di per sé, il potere non concede se non ci sono i numeri dietro una mobilitazione. Non è che perché noi abbiamo ragione, è che dall'altra parte loro hanno interessi enormi che non possono svelare pubblicamente, diciamo, lo devono fare politicamente, però non possono svelarci che c'è un accordo, quindi noi dobbiamo lavorare, il popolo deve lavorare affinché smascheri questa roba e con delle azioni, delle cose, e cercare di portare a casa un risultato. Nel nostro caso è il ritiro dell'AIA della discarica di Celico. Sì, nel caso specifico, ma poi come vedremo, insomma, tutti i territori saranno interessati, insomma, dalla questione, perché se si ripropone di nuovo l'impianto, il mega impianto di Bisignano, a Bisignano ci saranno di nuovo problemi. Bisignano sono già mobilitati. Io ho ascoltato un po' di ieri sera, ad esempio, mi hanno chiamato, mai entrato in contatto con Casignana. Casignana c'è una discarica che è sequestrata e che però loro inseriscono tranquillamente, quindi forse avranno delle certezze sul dissequestro e sui lavori da poter fare, inseriscono Casignana nelle linee guida. Insomma, ieri sera appunto sono stato contattato da alcune persone di là, in parte del vecchio comitato che si mise in piedi quando fu costruita, che come dire, terminò le sue attività con il sequestro della struttura, però quando gli ho detto che loro prevedono ancora un banco ulteriore di 200.000 e invece loro mi dicono qua ci sono problemi grossi perché quando piove il percolato se ne scende e arriva poi fino al mare, e allora sono rimasti basiti, siccome, e ho detto sì, ma queste sono le carte, ma Oliverio dice, Oliverio dice, sì. Ed è sì, bravo, sì. Però le carte purtroppo sono altro. Sì, perché abbiamo visto, insomma, è palese come ci sia una manipolazione mediatica che poi, insomma, non segue nei fatti della politica. Quindi Bisignano... abbiamo dalla nostra alcuni, dobbiamo giocarci delle carte, diciamo, ecco. Dobbiamo saperci giocare delle carte, altrimenti faremo un cattivo servizio. Insomma, il messaggio che dobbiamo lanciare è che i territori devono rialzare la testa, altrimenti qua ci seppelliscono nei rifiuti. Sì. Francesco, grazie del tuo intervento, molto, molto utile ed esplicativo. Ci vediamo prestissimo. Prestissimo. Ciao. Mercoledì alla sera. Sì. Mercoledì alla sera. Ciao, Fra. E quindi, questa è, caro Italo, questa... Si sono riscaldate le orecchie, sì. Queste cuffie. No, vabbè, qua con le cuffie è dura davvero. Visto che siamo un attimo in ritardo, no? Io andrei a sintetizzare prima di mandare l'ultimo pezzo, no? Nel senso che, se parliamo un attimo di questa lettera... Sì. Che abbiamo scritto ad Oliverio, e di quello che sarà sabato, io te lo anticipo, così poi parliamo liberi di sta lettera, sabato a Rovita alle 18 presso il Teatro Comunale ci sarà un incontro, un dibattito, un'assemblea pubblica, un comizio, un pranzo sociale, un jambot, insomma un incontro informativo sulle ultime preventi alla regione, sulla discarica Ricerico, i rifiuti. Interverrà anche il sindaco di Rovito, abbiamo invitato un po' tutte le associazioni, il prete, abbiamo fatto proprio i bravi paesani, abbiamo invitato tutte le persone che possono dire la loro, vediamo se questa volta tutti riusciranno a dirla la loro. Anche perché insomma voglio dire è importante davvero, perché la gente chiede, no? Com'è la situazione, vuole sapere com'è la situazione, quali sono stati gli sviluppi e tutto il resto. Appunto questa lettera aperta. Questa lettera aperta è il sunto di queste tre settimane che sono passate, insomma, con tutte le cose che sono successe, con la raccolta delle firme, la riunione in regione, le promesse fatte dalla regione, che sono appunto queste, le leggo proprio letteralmente. La regione si è impegnata a non utilizzare l'impianto e la discarica di Celicol per il conferimento di rifiuti appartenenti al circuito pubblico, di individuare risorse per bonificare l'area della vecchia discarica Soged, di coinvolgere sindaci e comitati nella predisposizione del nuovo piano regionale per la gestione dei rifiuti, avviare un procedimento per valutare se esistono gli estremi per ritirare l'AIA in autotutela. Di queste quattro promesse in realtà non è stata mantenuta nessuna nei fatti, perché siamo arrivati a mercoledì in cui hanno promesso questi 13 milioni di euro all'amica, quindi che cosa chiude? Non chiude niente, quindi farà ancora parte del circuito pubblico, della bonifica non se ne parla, delle bonifiche non se ne è parlato proprio, il coinvolgimento di sindaci e comitati nella predisposizione del piano dei rifiuti, ne abbiamo parlato prima, non ci hanno cagato di striscio, quindi questa lettera aperta, noi chiedevamo delle garanzie, chiedevamo degli impegni precisi, degli impegni ufficiali che sono stati già in parte disattesi. Chiedevamo soprattutto per quanto riguarda l'AIA, no? Nell'iter di rivisitazione dell'AIA di Celico, di assegnare il compito e seguire il procedimento a personale che non ha avuto alcun ruolo nel rilascio dell'autorizzazione in esame, di garantire l'astensione da qualsiasi coinvolgimento nel procedimento al personale coinvolto in procedimenti penali, di assicurare la presenza durante lo svolgimento di un legale di fiducia indicato dai sindaci dei comuni interessati e del CAP, in concerto con il CAP, di pubblicare in modo dettagliato tutte le procedure e le valutazioni adottate nel processo di rivisitazione dell'AIA. È per questo motivo che con la presente invitiamo il presidente Oliverio a predisporre quanto sopra richiesto nel più breve tempo possibile. Poi sono arrivati questo progetto di legge, è arrivato questo progetto di legge, queste linee guida. In realtà in qualche modo Oliverio ci ha già risposto, quindi ma ci aveva già risposto non venendo all'incontro, è chiaro, infatti è stato un messaggio abbastanza chiaro ed evidente il fatto di non essere presente all'incontro, ma averci fatto parlare con i suoi sottoposti, diciamo così. Noi diciamo che l'impianto di Celico va chiuso perché è illegale. Abbiamo raccolto 8.000 firme, 8.000 cittadini, 8.500 cittadini ci hanno messo la faccia e i documenti, altre migliaia di persone sono scese in piazza. Quindi è un territorio che chiede qualcosa di preciso, che chiede qualcosa di definitivo, con la chiusura definitiva di un impianto illegale. Quindi, come dicevamo con Ciccio, rispetto al livello regionale, devono essere i territori ad alzare la testa. Quindi gli incontri che l'incontro di sabato 7, ma gli incontri successivi che verranno fatti negli altri paesi della Presila e del territorio, dovranno essere mirati essenzialmente a questo, appunto a fare in modo che questo territorio alzi la testa, perché altrimenti qui a parole ci promettono il paradiso, poi nei fatti ci predispongono l'inferno in casa. Quindi noi pensiamo che sia illegale anche il piccolo impiantino di essiccamento, perché dista a meno di 1.000 metri dai centri abitati. La tanfa dei funghi e dei pomodori che seccano nell'impianto invade il centro abitato, e poi c'è una notizia ansia che Don Raffaele Vrenno, mi sto inchinando in questo momento, ha vinto un appalto con un ribasso del 70% per la gestione delle rose degli indiani che rimangono invendute durante l'arco della serata. Quindi a Celico non ci sarà più puzza, ma ci sarà odore di rose, odore di funghi, di pomodori, questi piani di essiccamento che dista purtroppo è illegale, sennò sarebbe sto bellissimo rose, funghi, pomodori, sottageti, olive, c'è l'odore della sila più il

una formalità. A chi non è mai stato lungimirante, ti dice di guardare lontano. A chi si rifà il sorriso e vince le elezioni. A chi somiglia alla parte di me che odio e non se ne va. A chi va tutto bene, sempre tutto bene. Sempre, solo, bene. Fanculo.